Invece di 6 e 5 adesso anni che dura il porto d'armi. E quello sportivo perlomeno. E non le puoi più detenere le armi, non è più come prima, che prima avevi la denuncia di detenzione e te ne sbattevi altamente, le potevi detenere, adesso no. Mi informati se non è come ti sto dicendo. No, non ci posso credere, non lo so, io non sapevo questa storia qui. Poi però c'è un discorso che bisogna vedere che tipo di porto d'arma è anche. No. Se tu hai armi in casa devi avere un porto d'armi, o che sia sportivo, o da caccia, o quello che è, perché sennò non puoi detenerle più. Devi presentare i fogli che ci vogliono per il porto d'armi, devi presentare in questura. Alla scadenza del porto d'armi devi presentare questi fogli qua, se no non le puoi più detenere, quello. Io finisco. Accidenti, cosa mi stai dicendo? È incredibile. Ma è strano però, io ho dei cognati che hanno il porto d'armi di fucile per caccia e qualcuno non ne ha più rinnovato e non ha ricevuto però nessuna comunicazione di avere questa documentazione, di versare questa documentazione. E tu diglielo a quelli che hanno il porto d'arma. L'avranno dati a quelli che hanno il porto d'arma le armi, perché non le possono più tenere. Se tu non versi i fogli, no, non le puoi più detenere, le devi dare a uno che ha il porto d'armi le armi, perché se vengono a controllarti non hai i fogli te le sequestrano, se non hai versato i fogli, capito? Forse non stanno controllando, mi starai dicendo. Però il giorno che controllano te le sequestrano. Ma io ho capito, ma in che cosa consiste questo dei fogli? Che cosa significa fogli? I certificati medici, quelli che ci vogliono, il certificato anamnestico, il certificato dell'ASL, devi versare in questura. E praticamente sono i fogli che ci vogliono per avere il porto d'armi. Quei documenti lì devi versare. Sono proprio, sto rimanendo basito da questa notizia. E vabbè, adesso mi informo, vediamo un po' cosa mi diranno. Intanto bisogna andare lì in questura e chiedere, perché per telefono non è che puoi chiedere niente. E mi presento lì e poi farò le mie richieste e vediamo un po' cosa mi rispondono. Se no qualche poliziotto che conosci lo glielo chiede e te lo dice tranquillamente. È quello che ti voglio dire io. Io ho due fucili e due pistole, quindi ho dovuto rinnovare il porto d'armi, tanto vale rinnovare il porto d'armi, no? Ho rinnovato il porto d'armi per quello, così mi dura altri 5 anni e nel frattempo magari me le vendo le armi, così almeno ci guadagno qualcosa. Prima che me le sequestrino, ho capito, me le vendo e via, e così non devo rinnovare proprio più nulla, tanto non ci sto più andando al tiro, cazzo, c'ho quella Glock che è nuova, non sembra neanche che abbia sparato, nuova, l'altro giorno le ho tirate voli, le ho lubrificate, se no magari mi si arrugginiscono, capito? L'hai limato il mirino? Sì, così te la metto più bene nel QSO, hai capito? Buonasera a tutti, ho acceso all'istante, ho sentito Natalino che ne parlava, non so chi ci sia. Vai, fai girare. C'è Vittorio, c'è. Vittorio, mica c'è questo Macolino Combo, sempre con le battute entra. Sempre cosa mi dice? Ciao Marco, ben sentito, dai. Qui Victor. Ciao Vittorio Volpe, giusto? Sì, vabbè, dai, con Natalino scherziamo. Poi quella non è battuta mia, è una battuta di un film, mi pare di Thomas Millian, che dice a un altro di limare il mirino, perché se non infilano le revolver nel QSO. gioia. Sto tornando adesso dalla spesa, Natale, ho fatto varie cose, farmacia, coso. Mamma mia, io mi sono messo i pantaloni lunghi il primo giorno, oggi però c'è troppo caldo. La mia patologia è una tortura, guarda, vai Natale. Aspetta che mi hanno telefonato un attimo, Marco. Eia, fai con calma. Sono voi due, ci siete? Sì, siamo noi due soli. No, c'era poco fa, è entrato un attimo in Lucca ed è andato via, dove stava facendo cose. Dica, Luca Del Monte. Capas. Luca, sempre facendo sta, poi c'è un giro di femmine che non finisce più, altro che baracchino, d'altronde è giovane, quindi si deve divertire. Eh beh certo, se tornassi a quell'età guai. Oh vabbè, io non è che sia molto più, pochi anni più grande, è che sono molto più spossato in tutto. Va bene, che altro c'è sul 10 che vuole entrare avanti? Uno per volta, mamma mia, sto baracchino sta diventando sempre più una... Sono più le volte in cui trovi, cioè, sono poche le volte in cui trovi una ruota nutrita. Solito sono uno, due, tre gatti, quando pure mi. C'è silenzio, evidentemente è una giornata silenziosa questa. Chi può essere? Sì, c'è un bel di gente in giro, porca miseria. In via Lone Sole da Filona, poi vabbè lì ci sono le scuole, non ho capito che scuole siano, che i ragazzi escono così tardi, tipo alle 5, boh, faranno l'orario continuato, con traffico in via Lone Sole, ma anche sai da quando? Da quando hanno, non so se tu la conosci, via De Carolis, dove ci sono le commerciali, lì era doppio senso di circolazione, quindi chi voleva far prima passava da lì anziché via Lone Sole. Adesso l'hanno fatta in senso unico, perché c'era un problema che quando nel gomito, diciamo, dove c'è l'angolo della chiesa, se passava un tram e una macchina, il tram non passava, aveva bisogno di quasi tutta la corsia per passare. Allora c'erano casini di abilità e hanno preferito farlo, diciamo che sbuca verso giù, verso via Lune Sole a scendere. Non so se è presente. Sì, la zona la conosco molto bene, però non ho capito se si, salendo il tram deve girare a destra di fronte alla chiesa e non davanti alle poste. Dunque, il tram dove va? Mi pare che sterza e sale in via Lune Sole, quello, sbaglio? Non ci ho mai badato, lo sai. No, allora, salendo da Vianetta, salendo lì, si tira dritto e poi va a finire, si continua e lì ci sono le porte sulla sinistra. Ecco, prima il tram saliva lì e scendeva lì, adesso dove gira il tram? A destra prima di arrivare alle porte, in più giù. Praticamente lì alle poste sale e scende sempre via Lune Sole, però poi via De Carolis, sì, io non so nemmeno che linea passi lì nella parallela di via Lune Sole, ed è solo a scendere perciò giù, sì. E quindi sull'altro lato è a senso unico? Sì, sì, sì, quel lato lì di via De Carolis l'hanno fatto a senso unico. Vabbè, un po' meno pratico per chi ci passava tutti i giorni, ma tant'è. E addirittura in via Lune Sole, dove ci sono quei due bar uno di fronte all'altro, sto parlando di via Lune Sole, in prossimità di via Trento, lì hanno messo senso unico, ma voglio dire, dal lato destro, andando verso via Trento, hanno messo divieto di sosta e di fermata. Stessa cosa di prima, se passava il tram e un camion anche di medie dimensioni, si bloccava tutto perché non ci passavano. Quindi puoi parcheggiare solo lato destro adesso, cioè solo da una parte anziché non più due parti. Sai cos'è? Ci sono sempre più macchine in giro e sempre meno parcheggi dove metterle, soprattutto chi è residente. Ma io quell'incrocio, allora via Le Trento, l'incrocio più difficoltoso è dove c'è la farmacia che è all'angolo, dall'altra parte c'è il supermercato. Il tram che veniva da via Le Trento da su per girare lì trovavo delle difficoltà perché è stretta quel pezzo di strada dove c'è la farmacia, è lì che stai parlando. Esatto. Adesso il tram gira, no? Come svolta da via Le Trento verso via Lune Sole, sulla destra ci sono i parcheggi, dalla parte sinistra però niente più parcheggi, divieto di sosta e fermata, per quanto la gente si sta mettendo lo stesso, infatti stanno sanzionando e rimuovendo. Anche a me è capitato il primo giorno di non saperne niente, poi ho chiesto lì al caffè dove vado io e mi hanno detto che hanno messo il divieto. anche a me stavo fregando. E lì è pericoloso, perché allora ci sarà sempre il vigile fisso. No, ma lì mi sono trovato anch'io molte volte bloccato, perché le macchine che parcheggiano sulla destra, salendo da Viale Trento, come svolti sulla destra a girare di fronte alla farmacia, lì che cosa succede? Che è bloccato, perché non ce la fai, non trovo a passare, perché magari la macchina che è parcheggiata a destra è un po' sporgente, una basta che sia più sporgente sul lato sinistro, e sul lato destro stanno scendendo le macchine e non ce la fa e non passa. No, ma hanno fatto bene allora. Diciamo che era necessario, sì, era necessario. Comunque hai ragione, lì in area d'incrocio con le tram svolta si mettono le macchine troppo in prossimità dell'incrocio, quello è vero. Troppo in prossimità dell'incrocio, quindi il tram si deve allargare molto e si trova le macchine nella corsia apposta, che per fortuna adesso si possono mettere tutte a destra, perché dovrebbe star libero, ma vabbè. Vediamo se Natalino è rientrato. Lunga, telefonata lungami, queste sono donne. È un bel furbetto a volte. L'altra volta c'era Concetta a Cagliari, perché c'era una cosa religiosa, non so, di un parente. È una, come dire, vabbè, non lo so in dettaglio. È tornata lì, se c'era casa libera uno o due giorni, polacchi, ungheresi, tutto. Oh, yeah. No, poi non lo farebbe perché costano. Non si può più fare niente. Se sei vivo devi pagare. Anche da morto devi pagare. È una cosa allucinante. Oh, che ora è? 7:15. E Natalino poi cena presto. Dopo lo posto mio. Lui pranza alle 7:30, mi pare. 7:15, 7:30 ha già cenato. Ma così è troppo presto, però è all'anima. Ma lui si alza presto, all'alba è già sveglio. Penso che il pranzo lo faccia a mezzogiorno, mezzogiorno e mezza, l'una massimo. E vabbè, io ho tutto l'opposto, sono un animale più notturno. Va bene. Di norma, chi non ha problemi di carattere, che cosa posso dire, di lavoro, eccetera, se si cena alle 8:30 è un orario più o meno giusto, ecco. Alle 7 è un po' prestino, alle 7 è tipo ospedale. Esatto, sì, tipo ospedale. E vabbè, ognuno c'è il proprio ciclo, io sono più notturno, in grano più tardi e niente. C'è qualche anima pia sul 10 che vuole entrare, avanti. Chi è? Sente anche un bel socco come preme la portante. Tac, tac. Vittorio, ma tu sei in QTH, sei a casa o sei sempre in macchina tu? Negativo, sono a casa. Avevi piazzato l'antenna, perché prima ti sentivo la barra mobile, ogni tanto ti ascoltavo. Cos'è, una Grand Play Boomerang oppure qualcosa di più riduttivo? No, è una Mantova 1 tutta disgraziata, incollata, che ce l'ho più di, forse ha raggiunto il 40° anno. Magari messa bassa, sì, 9.5 di segnale, non so, adesso non conosco bene la tua zona, però 9.5 è abbondante, diciamo. Com'è, molto bassa? No, è abbastanza, no, è a 3 metri dal tetto. Io abito fuori città, in periferia, non abito in città. Periferia che poi città lo stesso, perché qua sono libero, non ho ostacoli e quindi sono tranquillo sotto questo aspetto. Poi piuttosto è l'antenna che è tutta messa, è tutta incollata, l'avevo smontata con Natalino, roba di una quindicina d'anni fa, ed era tutta incollata, praticamente l'alluminio si è fuso, non è più telescopica. Quello è un difetto dell'alluminio, è un vizio, si incolla e diventa tutt'uno con gli anni. Ah vabbè, allora il segnale è più che adeguato, dai, se mi dice sei fuori Sassa, anche che fosse grosso modo la zona, Sassari 2, Monte Oro, che ne so, Guatamona. No, zona Monte Oro, allora, sul lato sinistro, non so se tu conosci Monte di Gesia, quella zona. Facciamo finta che la conosca, dai. No, ma non sono molto pratico, faccio sempre le solite strade, sono abitudinario. Vabbè, però siamo lì da. Va bene. Natalino, sei rientrato? Sì, sono qua, ero al telefono, e mi ha telefonato una persona. Cazzo diavolo. E vabbè da. Eia, riprendi con Vittorio, io vado a bere perché qua ancora non mi sono spogliato e c'è un caldo natalizio, cioè è una cosa, per me l'estate è diventata una maledizione, lo sai, è tutto vero in moto, mi senza parabrezza, eppure avevo caldo. È che sei un briaco nefragico tu. Magari, non bevo nemmeno. Natali, stavi parlando dell'arsenale che avevi rinnovato il Porto d'Ambio, però stai dicendo prima che me le tolgano, ma nel caso che non la rinnovino più fra 5 anni, vuoi dire? Oh, se tu non presenti i fogli che ci vogliono per avere il Porto d'Armi, te le sequestrano perché non le puoi più detenere, capito? Hanno cambiato la legge, la denuncia di estensione non basta più. Ma è assodata la cosa, c'è una proprio legge o i soliti abusi del questore di turno che si fa le leggi a conto suo, perché è già successa questa cosa. No, legge europea è cosa, le leggi che si fanno da solo, il questore non se le può fare da solo le leggi. E Natalia, sapete, se guardi la cronaca in materia di armi, questori, quello che è, insomma, caserme, si reinventavano di sana pianta le leggi per farti fare una cosa magari non prevista dalla legge, denunce non necessarie, autorizzazioni non necessarie, quante menate, anche questa storia dell'armadietto blindato. Mi pare che la legge dica di tenerla con la massima diligenza, non dice che devi obbligatoriamente avere l'armadietto blindato, come qualcuno invece afferma. Adesso poi ho perso di vista, vi sto parlando di tempo fa. L'armadietto blindato ci vuole se è una prescrizione che dà il questore alla gente che fa collezione di armi, se no non ci vuole. Ma è un invito o un obbligo? No, un obbligo è, per quelli che hanno la collezione devono avere gli armadi blindati. In terra. I collezionisti solo però, quelli che ne hanno tante. Allora il questore può fare delle prescrizioni, può dirti di metterti le telecamere, la porta blindata in casa, tante cose ti può prescrivere. Cappa. Beh, vabbè, perché vabbè, io leggendo su internet tanti casi di magari, che ne so, anche il 9 para, ti ricordi prima, il giorno prima andavi in galera, serve una cartuccia 9 para, il giorno dopo è legale, metti che si girino l'indomani, ricambiano la legge, vai di nuovo in galera, sei il 9 para, è sempre un po' tutto, capito, già ce ne sono tante leggi in Italia, se in più le cambiano ogni volta, ne fanno di nuove, che poi si sbugiardano l'una con l'altra, cioè così. Vittorio, riprendi, io vado a bere, che ho sette. Sì, vabbè, sono leggi un po' anomale comunque, perché non lo so Natalia, non lo voglio contraddirti, però qualche volta si contraddicono anche loro, mi ha detto bene. Cioè il problema è questo, se io ho una concessione con un'autorizzazione, anche se vecchia, deve essere trasmessa subito, però non è che ti arriva una comunicazione improvvisa che tu non, altrimenti uno deve avere il tempo di vendersela se ha un'arma, questo è il discorso, perché se tu mi metti in condizione di dovermela sequestrare e io l'autorizzazione non te l'ho mandata, che cosa fa? Ci vuole il tempo. Loro del tempo non gliele frega niente, sono leggi europee, hanno recepito questa legge e hanno cambiato il numero delle armi che puoi detenere, un casotto hanno fatto. Per esempio sportive ne puoi detenere 12 adesso, per uso caccia il numero illimitato. Hanno cambiato il numero dei caricatori, quante cartucce puoi tenere mettere nel caricatore. Cazzo, ne hanno fatto poco di leggi. Il 9 parabenu l'hanno liberalizzato, prima era considerata arma da guerra. Infatti gli israeliani, a noi italiani, ci hanno fatto il 9x21, perché noi il 9 parabenu non lo potevamo avere. Ed infatti eravamo esclusi dalle gare internazionali, perché il 9x21 non ce l'aveva nessuno, solo noi italiani. Adesso l'hanno liberalizzato e praticamente io, se voglio sparare il 9 parabellum con la mia, lo posso fare, mi cambio la canna e la mia funziona come 9 parabellum, perché solo la canna, nel caricatore mio ci stanno, quindi posso trasformarla in 9 parabellum. Ma io ho capito, hanno fatto queste modifiche, che però non vorrei che questa legge l'abbiano cacciata fuori, perché bisogna pensarle tutte, a disarmare la popolazione, così se dovesse capitare, ad esempio, come è successo in Siria, che la popolazione è disarmata, chi prende il sopravvento sono i soldati e tu sei succube di morire perché loro sono armati e tu sei purtroppo un pulcino. E a chi uno si lavora l'arma, aveva bisogno di rubuccio d'arma, vi tu. Cazzo, io mi compro un Kalashnikov e me lo tengo nascosto, molto ci vuole. Mica lo devo denunciare il Kalashnikov, cazzo. A casa i ribuschi quelli lì. Sì, tu hai ragione, però il problema è che se disarmano tutta la popolazione, perché la questura o la prefettura sa che armi hai e quante ne hai, se te le prendi tutte, tu quanti sono le persone che possono comprarsi il Kalashnikov? E dove lo vai a comprare, che c'è un cavolo di Kalashnikov? In Jugoslavia, dove vai a comprarlo? Se non siamo tutti disarmati, non ce ne sono più. E vai a andare in Corsica e le compri al supermercato. Logicamente non devi andare tu, devi mandare un corso a comprarla, se no alla frontiera, quando stai per rientrare, ti beccano immediatamente. Ma non è semplice, Nathalie, perché non fa tutta la gente che è stata disarmata andare in Corsica per questi anni per riarmarsi di nuovo. Non te ne accorgi che a parte la spesa, che lasciamo fare, non è una cosa semplice, è il fastidio che non viene bene. Ci stanno disarmando tutti quanti, io mi includo perché anch'io sono partecipe a questa combriccola, però non mi sembra giusta questa cosa qua a me, non lo so. Manco a me è sembrata giusta, infatti me l'ho dovuto rinnovare proprio per quel motivo lì, per poterle detenere finché non riesco a vendermele. Perché se no, perché se me le sequestrano rimango gurrudi a fucigaddu di Munui a Sassari. Sì, a me dà l'impressione che conviene già, sì, intanto mi informo bene per questa cosa qua, già ho amici che sono all'interno della situazione, ma non è che sono amici, mi devono far conoscere bene la situazione, così io interverrò di conseguenza, tutto qua. Qua basta che vai su internet e non c'è bisogno neanche di andare in questura. Metti su Google, legge sulle armi e ti dicono tutto. Ah, ecco, questo è, vabbè, no, vai, adesso lo accendo tra un po', quando chiudiamo poi, lo accendo il mio forno, perché è importante, cazzo. Tu adesso mi hai messo la pulce nell'orecchio e giustamente bisogna conoscerlo bene queste cose qua, perché se no rimani all'asciutto dopo. Se te l'ho detto, io a me quando ho recepito questa normativa nuova che hanno fatto, ho detto cazzo, ma va, mi tocca rinnovarmi lo butto dai, ma se no sono convuttito perché mi scade a novembre, non è manco scaduto e me ne l'hanno ritirato, te l'immagini? Non è manco scaduto perché mi scade a novembre a me il porto d'armi. Vabbè, tu c'avevi quello, però perché sei cocomane, è diverso. Ma io non era per tiro, era per, già lo sai. Già lo so, il tuo si rinnovava ogni anno e adesso non lo dà neanche la questura più quello che avevi tu, lo dà la prefettura. No, la prefettura me lo dava a me, perché era per personale, capito? Ehi, la prefettura lo dà. La domanda si fa in questura, però chi te lo dà è la prefettura, quello per il personale. E già lo so, purtroppo è così. Accidenti, cosa mi stai dicendo? E allora, se bisogna tre mesi di tempo per fare queste indagini, che poi che cazzo di indagini? Me l'hanno dato in una settimana la volta scorsa a me, perché ha parlato quel mio istruttore, adesso siccome non sto più frequentando il campo di tiro causa la malattia della gamba, ha detto che non può fare più niente, te l'immagini la gente, tutta a convenienza, so. A chi non la giubaga dura a destra non bisogna più andare. Come se cavolo posso andare a tirare io quando vado una caga che è invalida? Non ho capito. Oh yeah, per carità. Ti ricordi quando eravamo usciti tutti e due e abbiamo fatto, mamma mia. Un bel posto, ma funzionando sa ancora quella cosa. Che cosa? Tirassegno. Sì, c'è lì e ultimamente è alla strada dei due mari dove andavo io. E c'è il tiro al piattello a fianco. C'è il tiro al piattello e il tiro a segno, il campo di tiro, dove andavamo noi a fare tiro operativo. Poi ce n'è uno a Uri pure, però quello lì è tiro dinamico sportivo. Io facevo tiro dinamico operativo, quello che insegnano le forze dell'ordine praticamente. Il tiro all'immigrato non c'è? E al colombaccio, al picciotto, già c'è già. Oh, io, per carità. Ma tutt'acce la caserma. Altari, ti volevo dire prima, secondo me i momenti migliori state francarazzico, quando era caduta l'Unione Sovietica e a ruota tutti quei paesi, Jugoslavia, che sono tutti spezzati lì, che venivi i contadini sparando in aria con Karasnikov, lì con i canali giusti ne trovavi di roba da portare in Italia. Sì, a me me lo volevano dare quella roba lì da un altro posto, che ce n'è a casa lì, quante ne vuoi? Siruri ubigliami. Quello è bello per sparare a Capodanno, mi. A me lo spara a raffica. Ma sono ingombranti, quelli non li puoi tenere, non è come quella piccolina. Comunque è bello la K, A me piace tantissimo come nella versione possibilmente originale, poi hanno fatto tante derivazioni, eccetera. Ma io sono più. Poi però è una rogna mia avere al mio caso, sarebbe stata come burocrazia una rogna, proprio non finisce più, quindi meglio niente. Ma ancora una rogna è quando tu hai dei problemi di non poterla tenere, però se sei in te serve, soprattutto nel caso mio, io non abito in un condominio, abito fuori città, in periferia, è un paesino dove sono, ma è meglio che ci sia quella roba lì, capito? Ma tu ipotizza anche se la situazione mondiale sul fronte delle guerre dovesse peggiorare e ci fosse la scintilla che fa scoccare tutto, e lì è quello a sopravvivere, c'è la legge del più forte lì, allora sì che torna utile in quel caso. Vabbè, bisognerebbe avere molte altre risorse lì, un'infinità di risorse anche per tirare avanti, ma poi non so se sarebbe nemmeno più vita. No, sì, sono d'accordo con te per questo aspetto, però il problema è che se tu ti trovi innocuo, il sopravvento lo prende l'altro, perché tu sei purtroppo debole e vince il vincitore. Sì, la legge del più forte. Natalino già non ha problemi, mi. Natalino, poi tu già sei forte ormai, non c'è problemi. Che senso non ho problemi? Io stavo piazzando la scala qua, che ci stavo mettendo roba sopra l'armadio, che mia moglie mi sta assillando stasera, che la piglia da indò. E per forza se vuole lavorare, se non stai facendo niente tutto il giorno. Via. No, comunque Vittorio, già è una rogna burocratica, ti devi sempre ricordare scadenze, cose, ogni tanto magari trovi qualcuno che dice no, ma non è così, bisogna fare anche questo, poi vai a controllare la legge, e scopri che non è così, però li devi accontentare, se no non ti rinnovano le cose. Ui, sempre stata una seccatura. Poi da noi in famiglia le armi erano off limit, noi abbiamo perso due antichi parenti per colpa delle armi da fuoco, sai, uno per una pistola caduta, sicuramente era percussore lanciato, quindi si è sganciato e ha fatto il colpo, e l'altro invece ha fatto vedere una pistola all'amico. Ovviamente l'amico, la prima cosa che la prende in mano, cosa fa? La preme il grilletto, con la pistola puntata e l'ha ammazzato, ecco. Quindi erano off limits le armi in casa. Sì, certo, vero, quelli sono incidenti del percorso che succedono in tutte le famiglie, coloro che hanno le armi, ma non significa che l'arma è pericolosa, perché io da molto giovane la lasciavo l'arma sopra il tavolo e i miei cuccioletti non l'hanno mai considerata come se non ci fosse. È una questione di educazione. È proprio vero, perché l'arma è un pezzo di ferro, è la persona che è pericolosa. Però vabbè, quelle antiche erano anche, sai, quella roba, quelle berette antiche, di legno, cos'erano, quelle per cui sono le lanciato lì, praticamente se eri così incosciente da camerare il colpo in canna, non potevi né abbattere il cane che non c'era, non potevi nemmeno abbattere il percussore interno, cioè era una specie di mina vagante. Se poi era un po' consumato il dentino che tiene il percussore lanciato, bastava che un urto che cadesse a terra il colpo partiva. Erano, vabbè, adesso siamo mille anni avanti, diciamo, come tecnologia, ma una volta erano un po' più ambigue le armi da fuoco, bisognava stare più, non c'erano sicure automatiche o manuali, eccetera. Sì, le armi da loro erano non erano sicure, erano costruite con un certo criterio. Le armi adesso, tu prendi ad esempio una Smith & Wesson a tamburo, adesso ti sto facendo un paragone così mi è capitato di farti questo esempio, può cadere col cane che cade direttamente in terra e non spara, perché il cane se non ha quella velocità e quello spazio per colpire il mossolo non spara. Quindi non ho capito qual è e sono sicurissime, quelle di allora erano armi antiche fatte con criteri che non servivano a un cavolo. E la mia lo stesso, se cade non sparano, che c'ha la sicura al percussore, c'ha quella che ho io. Se non abbassi quella sicura lì non spara. Perché io te lo faccio vedere che c'è proprio un pin che tu, se non premi quello, non esce neanche il percussore, perché rimane bloccato. Aspetta, Natali, vabbè, quello in caso di revolver, sì, ho visto, vabbè, revolver, molti avevano la mezza monta cosiddetta, tiri appena appena il cane, fa uno scatto e praticamente c'è una piastrina o qualcosa che lo immobilizza. In più alcuni revolver, non so se indipendentemente dalla mezza monta o no, avevano in posizione di riposo una piastrina che si interponeva tra il cane e il percussore e quindi impediva fisicamente di percuotere il percussore, capito? E quindi se non tiravi a fondo il grilletto, questa piastrina non si spostava e non faceva fuoco. Vabbè, i revolver sono molto sottovalutati ormai, tutti vogliono le automatiche per avere 15 colpi, 18 colpi, poi vabbè. E poi se non sei un operativo che fai scontri a fuoco, cioè, non è che servono così tanti colpi. Vai Vito. Beh, adesso tu mi hai punto, hai voluto mettere il dito sulla piaga. No, vabbè, intanto il revolver, non si può paragonare, anche se Natalino è il contrario. La Smith & Wesson è una 357 Magnum, non è da paragonare a queste calibro 9, la cartuccia è la metà di dimensioni, non ci sono paragoni. Ma a parte questo, le armi non è che si inventano così. Un'arma ha una potenza, un'altra arma ha un'altra potenza, quindi tu dicevi bene che il revolver è l'automatico. fate? Dice, ma io ho 16 colpi. Sì, ma i miei 6 sono più potenti di 20 di tui, non serve a niente. No, ma soprattutto il revolver è più preciso di quella automatica. Capito? Io lo so perché ho sparato con il revolver, lo so. Hai capito, ma? Sì, sì, vabbè, poi i revolver ci sono di tutti i calibri, anche blandi. Però vedi, anche pochi colpi ma buoni, però l'importante è essere disciplinato nell'uso, perché se la dai a uno, sì, vabbè, fa l'abilitazione al poligono, poi magari si trova il ladro in casa, magari si fa prendere al panico, diventa tremarella, magari spara 6 colpi e riesce a sbagliarli tutti, come in quel film di Tarantino. Com'era? Pulp Fiction, non so se avete visto, c'era un tipo con un cannone, si chiamava una 357, una 44, spara contro i gangster che erano uno a fianco all'altro a distanza di 4 metri e riesce a sbagliarli completamente. E anche lì si era un bajambue, cioè uno che ha un'arma, io facevo i tiri lì al poligono, andavo ogni anno a fare l'esercitazione, obbligatoriamente, mi sono dovuto scrivere, ma quando sparavo con quell'arma, era un cannone, quindi quello dell'automatico, fermavo il coso, lasciamo perdere. Sì, ma tu ce l'hai la 357, che cos'è, una Python? No, è una Smith & Wesson, un 357. Basta. Ma tipo il modello 27? No, negativo, quello che usano i militari, la polizia americana, hai capito? Ah, vabbè, un po' retro, diciamo, come aspetto. Se vuoi ti dico il modello, ma non lo so. No, vabbè, fregatene, curiosità mia, dai, per sapere. Per esempio, il 27 era, è presente quella di Callaghan, no? Il 44 era il modello 29. Il modello 27 era simile, leggermente col fusto, mi pare leggermente forse più piccolo, ma non sono sicuro. Ed era 357. Sì, ma Callaghan, cioè, aveva la 44 e usava anche la 357, ma la 44 non è che sia molto più potente della 357, siamo lì. Il problema non è quello, il problema è della grossezza della canna e del radiatore, perché la canna, cioè il radiatore per raffreddamento, ci sono delle 357 che hanno la canna stretta, cioè voglio dire lo spessore della canna 5 mm, mezzo centimetro di spessore, perché è fatto apposta per non scaldare, perché altrimenti se spari 4-5 colpi la canna diventa incandescente e scoppia. Non so se mi sono reso. Sì, poi certi hanno le bindelle di raffreddamento, no? Ventilate, tipo la Python, mi pare. Tipo la Python, però è una questione di spessore. Tu prendi esempio il fucile. Fucile, quanto ha di un fucile da caccia, quanto ha di spessore la canna? Ha 2 mm, riscalda, è lunga, quindi c'è lo spazio per raffreddare. Ma se il fucile avesse avuto ad esempio 5 mm, mezzo centimetro di spessore intorno, non scalda mai, poi sai, tutto il giorno sparando, non scalda. Eia. Bene, Natalino, dai, riprendi tu. Tu hai mangiato, no? Scommetto che sei quasi pronto. Eia. Quella di Vittorio è di lusso, è bella, da 4 pollici è quella di Vittorio. È una signora Smith & Wesson. Soprattutto precisa quando parto. E quello già lo so. Cavolo. Quella di Vittorio è bellissima. Chi te l'ha detto che io sono contrario ai revolver? Non è vero. Io i revolver li tengo in considerazione solo che hanno pochi colpi e basta. Ma non, poi mi piace più l'automatica a me, anche per portarla, perché è più piatta, la puoi nascondere meglio. Invece il revolver è un bel rasone, quello che c'hai tu cazzo è una potenza. Se metti le cartucce su e catati, tre, ma crema la terra quando spara. Sì, Natali, ma revolver ce n'è anche 38 due pollici, piccoline, di tutte le marche. Lo so, però viene male a nasconderle, devi avere la fondina per forza. E il tamburo che la fa ingrossare come pistola, amico. Capito, già lo so che ci sono quelle più piccole, però quella di Vittorio gli devi dare di lei, quella è, se spari con quella è di lusso. Io ho visto anche le 44 che ce l'aveva quel radioamatore che era lì vicino in piazza d'armi, quella aveva le 44 magnum e non ne aveva una, ne aveva più di una. Vuoi toccare l'antenna, mi? No, è morto, poverino, di là. Veniva a sparare da noi quello lì. Mamma mia. La più temuta delle malattie, forse. Per carità, qua, non ci voglio pensare. Il Mesole si chiamava questo qui di cognome. Era ottico. Era. Dove c'è l'edicola lì vicino a Piazza d'Armi, va un momento che via è lì, sta via dei Fenice. Senti roba di propagazione sul fondo. Sì, io ce l'ho squelci, se no già lo credo che la sento. Io sto uscendo con un pezzo di filo, Vittù. Vabbè, un pezzo di filo, ma è elettrico e almeno. In che senso, Natalia? Si riferisce alla sua antenna, che praticamente è un tubo di PVC o cos'è, con un cavo dentro, un pezzo di filo elettrico. D'altronde mi è di poli, cioè anche il fan di polo, filo elettrico. Oh yeah, una volta l'ho puntato un giovanotto, avrà avuto una ventina d'anni, ma una trentina di anni fa. Kitsu dice, io dice, gli ho detto fermo un attimino, perché mi hai sorpassato? E mi ha messo, mi ha fatto là una parolaccia, le due dita. E ho detto fermo un attimino, e dice, ma noi siamo in due. Oh, io sono in sei, cosa fai? E dove sono gli altri? Qua, eccoli qua, con i tanacorrici, i bizzini, tanto la moto se non hanno fuso. Sei più uno che sei tu, e sei in sette totale. Ma gli ho detto solo di sei, e lui, loro stavano guardando gli altri. Allora sai chi mi ha risposto l'altro giorno? Oh Marco, un certo Kevin da Edimburgo in Scozia, dice che arrivavo potente. Guarda, faccio bersaglio a 100 metri, se tu in un secondo e mezzo non fai 100 metri sei morto. Ah, cavolo, 100 metri, c'ho la mano ferma, porca miseria. Hai detto Natalia Edimburgo, caspita, abbastanza a nord, da. Ma vabbè, d'altronde mi anche l'Inghilterra arriva come niente, non è che siamo tutti a nord. E a sinistra, un po', la Scozia, o a nord, aspetta, non mi dico, no, mi sto confondendo con l'Irlanda adesso. A nord della Scozia è montagna. È vero, l'Irlanda è quella a sinistra, isolata. Mi ha risposto la Scandinavia, lo stesso. Se ne voglio fare di ex, mi vota beffa. Col dipolo verticale, ti immagini? Sì, leader. Ma qual è il paese più a nord che tu hai sentito? E tu vabbè hai già risposto, la Scandinavia, ma per esempio la Norvegia, il nord della Norvegia, a livello di propagazione riesce ad arrivare? O è troppo a nord? E anche la Norvegia mi ha risposto, ho parlato anche io alla Norvegia. No, credo che più di tanto, idea mia, che quando se si è troppo a nord non... No, perché sempre associo la propagazione al caldo, no? Al tempo tipico della primavera. E penso che dove, in possibilità di poli si riduca, boh, non lo so, magari sto sbagliando. E nei canali di sopra, mica, andando laterale, cazzo, mi rispondevano tutti. la Spagna arriva sparata lo stesso, cazzo, mamma mia. Ho parlato con uno spagnolo pure. Sì, vabbè, la Spagna è una palla, mamma mia. Io purtroppo ho la zona libera verso, proprio verso cosa? Verso ovest, avrei preferito averla verso il continente italiano lì, invece sono schermato. Su che zona sei più libero? Allora, la zona dove l'orizzonte praticamente è quasi libero, non dico libero perché lo vedi. Allora, sono libero da nord ovest un po' a sud est, sì, quell'arco che va lì, verso la Spagna, eccetera. Invece è già Porto Torres chiusa proprio completamente dalla collinetta qua. Vedo, allora l'antenna vede solo la zona industriale, quella delle torri. Però la città è, sono terribilmente schermato, Porto Torres, Sol, Senna, è tutto chiuso. Anche proprio verso il continente italiano, in diagonale lì, è chiuso. Però poi vabbè, la propagazione fa i suoi miracoli. Però solo la propagazione. Sì, a volte non significa niente avere, molte volte si apre e poi passi, eccetera. Certo che se più aperto su una certa zona è più avvicinante la zona dove tu provvedi che sia più vicina. La propagazione poi è propagazione, quella è quando è universale, è universale. E giustamente, e poi bisogna vedere anche come sono le condizioni, è tutta una lettere infinita. Poi. L'Italia la saltava di brutto, neanche un italiano c'era, manco a tirare la balla. Nathalie, devi tenere presente che, allora, chi lavora in radio, io sono tantissimi anni, ma proprio tanti, però non ero mai appassionato, adesso mi sto un po' riappassionando, ma il tempo a disposizione è quello che è. Ma io ho parlato con un italiano, ma un italianissimo, che però non è che lo parlasse molto bene, era nato qua, e lui si è trasferito là, a Bogotà, pensa, e mi voleva mandare le fotografie, e dico, no, lascia perdere. E questo qui parlava benissimo l'italiano, ed era un emigrato a Bogotà, come si chiama quel paese? Peruviano, in Perù, ma sai che il Perù, io non sono riuscito mai a parlare con quei posti lì. Io ho parlato col Brasile, con un sacco di posti, ho parlato, addirittura sono arrivato alle isole Svalbard. Sì, questo sono d'accordo, ma in Perù non è semplice, perché c'è una catena montuosa dove tu proprio nella città non puoi parlare. Questo sono riuscito a parlare, era uno sprazzo, no? 15 minuti abbiamo parlato con questo italiano, era napoletano, emigrato lì e c'erano tanti anni, eccetera, eccetera, e aveva la radio e lui... No, Biglia, nata di Colombia, Bogotà e Colombia. No, la Brasile sì, si parlava molto anche in Argentina, ma in Perù non si può parlare perché c'era una cappa che è difficilissimo, ed era la propagazione. Ehi, dipende dalla propagazione. Comunque Bogotà è in Colombia. Hai ragione. Eppure, Vito, sai che anche i radioamatori qualcuno l'ha sperimentato. Vado. Ok. In Perù sia la catena montuosa, no, che scherma verso di noi, però se la propagazione è eccezionale, il segnale ti può arrivare non dalla zona atlantica, ma fare il giro del mondo e arrivare verso te, ma ci devono essere condizioni credo più che favorevoli. Anzi, ti dirò che non so se la nostra banda, così come 10 metri, siano interessati a quel tipo di propagazione. Sì, no, ma sempre sulla 27, attenzione. No, ma ero in laterale, non ero in AM così. Era in SSB. Non so se l'avete mai sentita questa storia. Sì, l'SSB aiuta molto, comunque, molto molto. Certi radioamatori, contattando alcuni paesi, no? Sentivano la voce dell'interlocutore lontano, quasi con un eco attaccato, quasi pochi millisecondi o quanto è di differenza, perché la propagazione era tale che gli arrivava il segnale dalla parte atlantica e ci metteva più tempo invece ad arrivare il segnale dall'altra parte del pianeta, arrivava con leggero ritardo, quindi sentivi questa sorta di effetto eco, una cosa che avrei voluto sentire. Sì, è un po' come quando arrivano i segnali lì, che poi è tutto fantascienza, bisogna vedere, perché da Marte non arriva nessun segnale, e loro dice quando, anche dalla Luna il segnale arriva sempre, mi pare 4-5 secondi dopo, mentre da Marte arriva dopo 20 minuti, no, dopo, quindi ci sono queste sbalzi di messaggi dovuti anche alla propagazione. E poi vabbè, lì è, no, ma bello che lì era in contemporanea, no, modulando lì in bande amatoriali, cioè sentivi l'interlocutore, ti arrivava prima perché è più corta la tratta la zona atlantica, e un istante dopo sentivi, faceva praticamente lo stesso segnale di quello che parlava, il giro del mondo, e ti arrivava dall'altra parte, quindi dall'est. Una cosa incredibile, guarda. Natali, cosa dici tu a riferimento? Così esse. Natali, qua a Sassari ne avranno mai fatto attività ENE. ENE è quella, perché che parli tramite luna, punti le parabole, parli, dopo 2 secondi arriva la luna, dopo 2 secondi torna a terra, mi pare il segnale, no, quanto è un secondo, vabbè, si è capito cosa intendo, no? Usano la luna come superficie riflettente per parlare da due estremi del pianeta, più o meno, basta che sia visibile la luna, buio totale. Marco magari. Sì, invece era moglie. Marco forse l'avrà fatto. Ma non l'ho mai fatto. O Antonio, che gli piacevano i satelliti, a quello. Però solo loro, poca gente, quella è robe lì le fa. Gente attrezzata. Ah, questo no, è quello di oggi. Non fai un tubo. Sì, infatti, per cui se sei radioamatore c'è tanta quella roba da fare, altro che fonia. Vabbè, quella è fonia, ma ti puoi divertire in tantissimi modi, in tantissime bande, in tantissimi periodi, ogni banda ha delle caratteristiche, vabbè, però bisogna avere anche sghe per farsi una situazione come Dio comanda. Infatti ci vogliono gli sghi. È molta passione, molto attaccamento, se no non fai nulla, anche avendo gli sghi. Guarda che Marco se ne alza alla 1 di notte, per potersi fare di ex. Sì, addirittura c'era, non so, una certa banda, in certe condizioni, tipo solo certi mesi dell'anno, dice che al sorgere del sole avevi pochissimi istanti, tipo 1 o 2 minuti di copertura, in cui riuscivi a, si formava questa specie di tunnel per parlare con un certo paese. Cioè, dovevi sfruttare quella tecnica per riuscire a parlare con l'interlocutore, capito? Proprio pochissimi minuti, da quando il sole proprio fa capolino, vedi, all'orizzonte. È una figata, ho letto un bel po' di roba, però ci vuole una dedizione tale, se vuoi fare tutto, una passione tale, anche un portafogli tale, vai tu. Non è semplice, ci vuole passione, poi devi avere anche le apparecchiature giuste per fare certe comunicazioni, altrimenti, cioè, che cosa serve? Se sei bravo e hai le cose giuste, fai quello che puoi fare, se no rimane niente, rimane ramingo. Signore, io sto perdendo quota un po', io staccherei quasi, da una chiacchierata ce l'abbiamo fatta, che ora è 7:30, ora è presto. Natali, tu stavi mangiando, nel frattempo devi mangiare. Oh, io l'ho quasi finito. Così è, cosa hai mangiato di buono? Riso e frutti di mare ho fatto oggi. Ah, interessante. Vabbè, io non li amo troppo, però già è buono, come la pizza così. Al vicino gli piace quelle fettuccine che ho fatto col sugo con i pomodori freschi, i baffi se ne ha leccato. Chi? Concetta? No, il vicino. Ah, ok, sì. E beh, quando è tutto fresco è buono. Ma in certi ristoranti erano arrivati a fare porcherie. Non so se sia vero, questa magari è una leggenda metropolitana, addirittura fare la pasta a frutti di mare con non solo la roba surgelata, ma roba tipo frutti di mare sott'olio. Non ci credo, non è possibile, a meno che non abbiano fatto fesso qualche turista che non se ne intende. E infatti. Insomma, a cena cosa vi state preparando? Io ceno alle 10:30, 11, ci penserò dopo. Vediamo, nuova fantasia. Esagerato, così tardi? Magari no, 11 no, 10:30 sì, perché ho il ritmo mio un po' diverso. Vabbè, abbiamo dei turni diversi, no, io verso 8:30, 9 dovrei aver già finito, anche perché poi suono un po' e mi diletto un pochettino la musica, ecco tutto qua. Natalì, sai come facevano Vittorio anche? Conoscenti che avevamo, no? Vabbè, la cena, vabbè, il pranzo lo facevano assieme come tutte le famiglie, però siccome in base ai turni dell'uno dell'altro, voglia, ognuno cenava all'ora che voleva, non facevano la cena assieme. Era una famiglia, però chi tornava prima, chi dopo, ognuno si mangiava quello che voleva all'ora che voleva per cena. Poi a me una cosa che mi ha sempre scocciato è essere abitudinario, quelle cose no. Io per esempio quando ho fame mangio, non proprio a orari fissi, per esempio se ho fame alle 1:30 mangio alle 1:30, se ho fame alle 3:30 del pomeriggio mangio alle 3:30, se non peggio. Invece magari per esempio il nonno era un orologio, a quell'ora doveva mangiare e aveva fame, non è che mangiava contro voglia. Però a quell'ora mangiare, a quell'ora in bagno, a quell'ora, mamma mia, sembra di essere in ospedale, davvero. La fame non è proprio fame, è una questione abitudinale. Se tu sei abituato a fare i pranzi, ad esempio il pranzo all'1:30, quella è. E poi se capita, io ad esempio una quindicina di giorni fa sono capitato in un posto, non vi posso dire dove, e questi erano abituati a mangiare alle 3:00, e io ho detto aspetta, c'è un po' di langurino, diciamo che non mangiare qualche cosa, e io ero abituato a pranzare all'1:00, 1:30, alle 3:00 è tardi, e cavolo, loro erano abituati così, e mi è venuto un po' male, e allora ho cominciato a mangiare qualche cosa, ma ho detto, ma come mai? Cioè io sono abituato un po' presto rispetto a voi, voi avete la sua abitudine, e dice perché lui ci va a lavorare, ma io no però. Ma il meridione per caso mi ricorda certi parenti che mangiavano molto tardi a pranzo. Alle 3:00, allora portato dal 2:30 in poi, quindi preparava alle 2:10, 2:15, alle 2:30 erano pronti, e alle 3:00 cominciavano, alle 3:00 io mi metto a suonare, faccio qualche cosa, faccio un po' di musica. Ma è così, Vittù. Io per esempio sto mangiando così presto, perché dopo mi devo fare l'insulina, se no più tardi mangio più tardi mi devo fare l'insulina, devo misurare la glicemia, e no è usino. Prima quando io uscivo alle 2:00 da lavorare, mangiavo verso le 3:00, quando lavoravo al comune che uscivo alle 2:00, verso le 3:00 mangiavi. Quello da sole me lo dovevo preparare io il mangiare. Sono d'accordo, ma tu sei scusato perché c'hai patologie eccetera eccetera, ma chi queste patologie non ce le ha, tutti sono tranquilli, però le abitudini sono queste. A te Marco. Sì, mi ricordo questo fatto, ero piccolo però, ci mangiavano proprio molto più tardi di noi. E poi questi piatti di spaghetti, di pasta asciutta pieni, cioè non un piattino pieni, cioè avevi la montagnetta, che schifo, a me faceva uno schifo. Poi tutti i giorni pasta asciutta e carne, pasta asciutta e carne. Vabbè, la carne poteva essere fettina, arrosto oppure impanata, però mamma mia, proprio dei mangiatori professionisti, sarà la, come dicevo io, la fame atavica del meridione. Buona forchetta ci vuole per mangiare. Natale, buona forchetta, ma ce ne vuole anche, ci vuole anche cibo. La buona forchetta, ci vuole anche roba che sia gustosa. E se no la carbonara non mi esce bene, mi vi tu, cazzo. Il vicino, il mio dirimpettaio se ne ha leccato i baffi. Una volta c'era mia moglie che è dovuta andare fuori. E io ho invitato il mio vicino, no? Ci abbiamo fatto questa carbonara, guarda, paccheri alla carbonara, anche la minestra ho indovinato, perché tutto il condimento se ne entrava nella minestra, guarda, uno spettacolo era. Paccheri sono quelli di cui mi ha mandato la foto.